95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'da bu hafta Paola Conte var. Paola Conte Asti'de 6 Ocak 1937 yılında hukukçu bir ailede dünyaya geliyor. Asti bir Piemonte şehri. Babası Luigi müziğe tutkulu bir noter, annesi de eski bir toprak sahibi bir aileden geliyor, Carlotta. Savaş sırasında büyük babasının çiftliğinde çok uzun zaman geçiriyorlar ve bu dönemde bu birikimli, kültürlü ve müziğe tutkulu aile aracılığıyla piyanonun temellerini öğreniyor. Faşizm yıllarında babası gizlice yurt dışından plaklar satın alarak Conte'nin caz için belki de ilk aşkının fitilini ateşlemiş oluyor. Şimdi biz 1992 yılından Novecento albümünden Fırtınalar Arasında Müziği Ne Kadar Çok Kovaladım dediği bir parçayla başlıyoruz ki bu parça Conte'nin her daim müziğin peşinde koşmasına bir atıf. Gong Oh ile Conte şimdi radyonuzda. Cade una matita, si rovescia anche il cappotto. Lo sento che lui è già qui, nei paraggi intorno qui c'è Gongo che è arrivato. Gongo, Gongo, spirito lontano, vieni nella notte blu a far di me in mano tua. Giocatolo, sto lavorando, è tardi, adesso arrivi tu, conversiamo come faccio, vuoi tu dirmelo? C'era una volta un bel linguaggio che mai più ho parlato, non ti spiace ricordarmelo? Ci manca il pubblico, va bene, ma io e te siamo due grandi artisti e insieme diamo spettacolo. Del tutto illogico, sillabico è per me, sensuale, invisibile, teorico. Gongo, suonami Harlem Gongo, il fantasma di Cicuetto. Io tondolo, io gongolo, giocattolo. L'alba è fuori rosa, adesso è il blu, che silenzio, un po' di sonno e un'elemosina. Ho fatto tutto quello che hai voluto tu, in un grande viaggio indietro, un incantesimo. Gongo, tornerai tu, Gongo, perché quando arrivi tu, io rotolo, mi srotolo. E mi arrotolo. Gongo radyonuzdaydı. Conte 80'li yıllarda bir röportajında şöyle anlatıyor. Mussolini Amerikan müziğini ve cazın yayılmasını yasaklamıştı. Ama her şeyi engellemeniz mümkün değil. Böylece büyük klasikler İtalyan orkestraları tarafından İtalyan isimlerle icra edilmek koşuluyla hayatımıza girdi. St. Louis Blues'un Tristezza di St. Luigi olmasının nedeni de tam olarak budur. Ben çok şanslıydım. Çok genç ve bu nedenle müziğe meraklı, tutkulu, yeniliğe açgözlü olan ailem polise ve baskıya rağmen Amerikan müziğinin kayıtlarını elde etmeyi başardı ve sonra gizlice oturma odamızda çaldılar. Ben bu sayede çocukluğumdan beri cazdan beslendim. Orijinal ve son derece kişisel bir Conte poetikası bizlerle olacak şimdi. Çocukluk ve ergenliğe ilişkin sesler, okumalar, gösteriler, sinema ve fantezilerin aracılığıyla bir nostalji olan Boogie şimdi radyonuzda. Due note il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. E Boogie Woogie, Woogie Woogie. You get no more red? We don't have to see it. Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici. Da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decollava. I musicisti un tutt'uno col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Quinto personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti. I don't want to let me Bugi Radyonuz'daydı. 1968 yılında Mayıs ayında Conte tam olarak tanımlanmamış bir müzik besteler. Bu rock değildir, slow değildir, bir balat değildir. Bir tür marş gibidir ama tam olarak o da değildir. Vito Palavicini ile Celentano sanki onun için özel olarak yazıldığını düşündüğü bir metinle aşktan ekolojiye, oradan dine, ünlü nakarat çevresinde birleştirdiğinde ritmik ve unutulmaz tınıları olan bir eser doğar. Bu parça ilk kez Celentano'nun 45'liğinde kendine yer bulur ve İtalyan müziğinin uluslararası başarılarından biri haline gelir. Ama bence daha da önemlisi Vito Palavicini ile birlikte yarattıkları Azzurro ile Paolo Conte hem İtalyan müziğinde kalıcı olduğunun altını çizer hem de bu ikilinin uzun yıllar sürecek üretiminin en önemli parçalarından biri yaratılmış olur. Azzurro'yu Paolo Conte'nin 1988 Amsterdam konserindeki bir canlı yorumunu dinliyoruz şimdi. Azzurro radyonuzda. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro. Ricordo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri e dei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' l'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro radyonuzdaydı. Şimdi yine sözlerini Vito Palavicini ile birlikte yazdığı ve Conte'nin bestelediği, yıllar boyunca çok farklı sanatçılar tarafından icra edilmiş bir parça bizimle olacak. Conte, Enzo Iannacci'nin başarıya ulaştırdığı bu şarkı ile ilgili ben İtalyan müziğinin tarih boyunca sahip olduğu en büyük şarkıcı ve söz yazarı olan Iannacci gibi bir tercüman bulduğum için çok şanslıydım diyerek açıklar. Bu parçayı Enzo Iannacci'den Ocak ayında dinlemiştik. Şimdi 1988 live albümünden Paolo Conte yorumunu dinliyoruz. Messico e Nuvole şimdi radyonuzda. Lei è bella, lo so. È passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Oh. Chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole. La faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di ridere, oh. Sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare un sì, ma mentre sa chi è già provvisorio l'amore che c'è, sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il Messico davanti a me. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole. La faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di ridere. Messico e Nuvole ile Paola Conte radyonuzdaydı. Tango Club 25 Mart 1981'da 24 saat aralıksız süren ve Conte onuruna merak uyandıran Conteana başlığıyla bir etkinlik düzenliyor. Bu sanatçının Paris Milonga adlı yeni albümünün tanıtımı için de çok büyük bir fırsat oluyor. Bu sırada Ariston sahnesine Roberto Benigni geliyor. Müzisyene saygılarını sunuyor ve arkasından da herkesi kahkahalara boğan meşhur ironik bestesini Conte'ye ve karısına söylemeye başlıyor. Diyor ki ben Paola Conte'nin karısından hoşlanıyorum diyor. Bu komik olay Conteano repertuarının en popüler albümlerinden birinin doğuşunu da temsil ediyor. Ve hem eleştirmenlerden hem de halktan çok olumlu tepkiler alan Via Con Me şarkısını da bize tanıtıyor bu organizasyonla beraber. Şimdi bu bahsi geçen iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Öncelikle Roberto Benigni Mi piace la moglie di Paola Conte diyecek. Arkasından da Itabella'nın jenerik müziği olan Via Con Me radyonuzda Itabella'da olacak. Eppure lui è un avvocato. Un uomo fra più esperti e per vedere lei lo seguo nei concerti. E mentre Conte canta, a lei mi siedo accanto e vinto dall'incanto perdo il conto.

Max radyonuzdaydı. Şimdi belirli bir şarkıyla bağlantısı olmayan ama albümün şarkı sözlerinin içeriğini çok iyi anlatan Appunti di Viaggio, yani Seyahat Notları isimli albüm 1982 yılında yayınlanıyor. Bu albümden Amerikalı yazar Hemingway'i Venedik'teki bir barda anlattığı Hemingway ve ardından da Astili büyük bisikletçi, çok önemli bir bisikletçi olan Giovanni Gerbi'ye adanmış Diavolo Rosso şimdi radyonuzda. Oltre le dolcezze dell'Arisbar e le tenerezze di Zanzibar c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò. Za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za. E allora, monsieur Hemingway, ça va? Hemingway, ça va mieux? Bambine bionde con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi, che quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cotimo. Voci dal sole, altre voci, da questa campagna altri abissi di luce, e di terra e di anima niente più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il tempo se ne va. Girano le lucciole nei cerchi della notte, questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratafià. Hemingway ve arkasından Diavolo Rosso dinledik. Şimdi 1975 yılında Bruno Lauzi tarafından yayınlanan, söylenen ancak sözlerini Paola Conte'nin yazdığı bir parça bizimle birlikte. Bu şarkı Cenova'dan bahsediyor ve kırsal kesimden gelen Piemontelinin ara sıra güneşin ve belki de bir kumsal deniz tatilinin hayalini kurduğu bir ziyaretçinin bakışını ifade ediyor. Bu parçada taşralıların karmaşıklığını ve şehri ziyaret ederken hissettikleri bu zenginliği, merak duygusunu çok iyi özetliyor. Genova per noi bir Paola Conte yorumuyla şimdi Açık Radyo'da. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata. Genova per noi radyonuzdaydı. İtabella'nın bugünkü konu Paola Conte'ydi. Paola Conte için hani 3 tane, 5 tane, kaç tane program yapabileceğimi bilmiyorum. En sevdiğim parçalarını bir araya getirebileceğim. O yüzden herhalde önümüzdeki dönemde Conte için başka programlar da yapma fırsatı bulacağım gibi gözüküyor. Şimdi görece yeni bir Paola Conte parçasıyla kapatıyoruz. Bu İngilizce ile oynayıp İtalyanca söylediği tipik parçalardan bir tanesi. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Dragon'la kapatıyoruz. Hoşça kalın. Farmi un ritratto in forma di piano e me lo vuoi fare in forma di treno. Sua imitazione. consiglio lo accetti, è da grande illusione. The dragon, dragon, that's the dragon, dragon, dragon now, yeah.